trasmettiamo Proxibar. Proxibar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti su Radio Mago, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio. Grazie Antonio, prima o poi un giorno scoprirai che inizierò io la trasmissione. Beh, io un po' che te lo propongo. No, tra l'altro c'era il rischio oggi veramente di essere solo in studio, perché sia te sia il nostro illustrissimo ospite che presenteremo tra poco eravamo tutti bloccati, perché qui fuori c'è una specie di nubifragio, ci sono le strade tutto allagato, e come sempre a Roma, cioè la pioggia semplicemente non è prevista, e quindi sì, la città questi va in sette minuti di ritardo sono tutti miei, quindi mi scuso con gli ascoltatori. Va bene, tanto poi sai come rifarti, no, con la tua consueta aggressività, perché oggi parliamo dei tentativi che i poteri economici, i poteri politici, che forse sono la stessa cosa, di imbrigliare, murare, chiudere e riproporre magari a pagamento la rete internet, che però non si fa facilmente imbrigliare. Possiamo anche partire. Esplosa ieri la notizia, l'ha tirata fuori Punto Informatico, che è una nota testata online di informatica, poi è stata ripresa da Beppe Grillo, visto anche da Repubblica, e poi l'abbiamo vista oggi sui giornali. Qual è il tema? Qual è il problema? Questo disegno di legge prevederebbe la creazione di un ROC, un registro per gli operatori delle comunicazioni, dove chiunque faccia informazione, sia di carattere personale, sia di carattere professionale, sia a scopo di lucro o meno, è obbligato a registrarsi. Allora questo vuol dire mettere una tassa, e poi vuol dire decidere chi fa informazione e chi può di fatto essere autorizzato, tra virgolette, a fare informazione e chi no. Allora voi capite che questo tipo di approccio ha due enormi problemi: è tecnicamente una follia, e adesso vediamo il perché, ed è chiaramente una vergogna per l'Italia, davvero una vergogna. Perché? Perché mette in evidenza quella che è purtroppo la diffusa analfabetizzazione della nostra classe politica. Allora vi faccio un esempio: noi abbiamo già visto in passato il caso del decreto Urbani sul file sharing, con il carcere per i ragazzi che scaricavano la musica. Abbiamo già visto il caso di Italia.it, 40 milioni di euro buttati via, non si sa se questo sito partirà o non partirà, 80 miliardi di lire, amici, son molti soldi per creare un sito del turismo. E adesso ancora questa vicenda. E noi capiamo quanto questo sia dovuto, io non credo a un pregiudizio, ma proprio a un fatto di scarsa conoscenza. Allora, da un lato è positivo che Grillo, ad esempio, faccia la cassa di risonanza, oppure Di Pietro sposi la causa in questo momento dei blog e via dicendo. Però è chiaro che i nostri politici hanno bisogno di essere alfabetizzati, questo è un aspetto evidente. Bene, dunque io intanto darei il ben trovato a Stefano Epifani, che è docente di comunicazione interattiva presso l'Università La Sapienza, la Facoltà di Scienze della Comunicazione, seguitissimo blogger, no? Il blog di Stefano, che io considero un fine osservatore, anzi un fine buonasera, polemista. Professore. Buonasera a tutti. Che che normalmente su questi temi un po', come dire, pruriginosi, potremmo dire, è sempre una delle voci più ascoltate, noi giustamente l'abbiamo invitato nuovamente qua. Benvenuto Stefano. Grazie a voi. Dunque, forse questa è la prima puntata in cui forse non c'è neanche bisogno di fare grandi domande, perché abbiamo tutti una rabbia dentro da sfogare contro cose, per esempio, come questo DDL Levi, non tanto per i suoi presunti effetti liberticidi, ma proprio perché, come diceva Montemagno di SkyTG24, da cui abbiamo tratto questo breve inserto, no? Lui ha una trasmissione che si chiama Reporter Diffuso, che è un importante, diciamo, spioncino del web 2.0 nel pubblico di massa. Lui appunto parlava del fatto che è un segnale di inadeguatezza della nostra classe dirigente, che non sarebbe in grado di occuparsi delle cose che stanno a cuore, diciamo, di chi internet in qualche modo la vive, ci lavora. Cioè, la sensazione è proprio che ci sia un gap generazionale di competenze quasi incolmabile. Stefano. Sì, Il problema del DDL Levi è quello che assilla tutti i provvedimenti e tutti i disegni di legge che riguardano internet da un po' di tempo a questa parte, e che dipendono essenzialmente, a mio giudizio, da un fatto: i nostri legislatori, quando legiferano su internet, essenzialmente legiferano su qualcosa che non conoscono, riportano a dei modelli che invece riescono a padroneggiare, e di conseguenza, cercando di legiferare su qualcosa che non conoscono, riportandolo a cose che conoscono, di solito fanno delle grandi fesserie. Ecco, ci sono stati un po' di mal di pancia nella blogosfera, perché all'inizio c'è stata proprio una paura, no, per gli effetti quasi censori, poi c'è stata la grande sfuriata di Beppe Grillo, poi pian piano invece è subentrata, diciamo, più che altro il senso di impotenza, cioè l'incapacità di parlare con questi decisori. Beh sì, all'inizio la blogosfera è insorta con una vera e propria levata di scudi, in quanto il DDL Levi è stato percepito come un attentato alla libertà d'espressione in rete. Stefano, scusami se ti interrompo, però la stessa cosa, esattamente la stessa legge, era stata proposta e attuata 5 o 6 anni fa. Sì, con l'istituzione del ROC. Il ROC non è una novità, non è una novità di questo disegno di legge, il ROC esiste già. Il problema è che qualcuno, nello specifico civile.it, da cui poi Punto Informatico ha ripreso la notizia, ha notato che nella struttura della legge, per come era articolato il disegno di legge, non si differenziavano non tanto i blog in quanto tali, quanto piuttosto gli autori di blog amatoriali dal resto della comunicazione online. Ma ci stupiamo? No, non ci stupiamo, ma personalmente mi deprimo, perché è l'ennesima volta nella quale la nostra classe politica dimostra di essere inadeguata. Perdonatemi, questo io lo vedo come un attentato non tanto alla libertà, ma una conseguenza della nostra classe politica verso il blog di Beppe Grillo. E questa è proprio una cosa fatta apposta su di lui. Io l'ho vista, appena l'ho letta, ho detto ok. Sì, però la cosa buffa è che stanno parlando, no? Due punte di visibilità, il mondo politico da un lato e Beppe Grillo dall'altro, che non sono rappresentativi di niente, perché Beppe Grillo non è considerato rappresentativo della comunità dei blogger. No, ma lui col suo blog è riuscito a creare quasi un partito sì, sì, che sta massacrando e mettendo in cattiva luce l'attuale governo italiano. Però io credo che il mondo dei blog in generale abbia bisogno di una legislazione, di strumenti legislativi all'altezza, perché adesso il problema di questo decreto, andando a leggerlo, a spulciare qualche articolo, è che semplicemente non è applicabile, cioè ci sono dei punti... No, permettetemi di fare una considerazione. Il DDL è stato scritto prima dell'esplosione di Grillo, perché il DDL è stato scritto ad agosto. Aggiungerei un fatto. Io purtroppo non credo che la nostra classe politica sia talmente preparata da essere in grado di sviluppare un DDL per combattere un fenomeno presunto pericoloso come Grillo. Non credo infatti che fosse una reazione per combattere Grillo, anche perché in tutti questi decreti apparentemente censori, limitativi, per esempio il decreto Urbano, eccetera, più che una linea, diciamo così, di continuità sulla volontà di bloccare questo mondo, c'è l'unica vera linea di continuità che vedo è l'inapplicabilità rispetto al mondo reale. Poi chiaramente se le conseguenze... Sì, qualora il decreto fosse passato così, il disegno di legge fosse passato così com'è, sarebbe stato democraticamente folle e tecnicamente inapplicabile. Sì, però scusatemi, il blog di Grillo ormai viene citato quotidianamente da quotidiani e telegiornali. Si fa ormai riferimento a quello che scrive Beppe Grillo sul suo blog. viene considerata una fonte. No, che lui abbia dettato l'agenda politica per un certo periodo, siamo d'accordo che ci sia, ma lui ha semplicemente utilizzato il blog per scalare i mainstream media dai quali era stato tagliato fuori per tantissimo tempo. Però adesso, in realtà, oggi noi vogliamo parlare di come tutto il mondo reale che anima la blogosfera si senta completamente tagliato fuori da questa cosa che è successa. Cioè c'è una sensazione quasi kafkiana, non so. Tra l'altro, ecco, io vorrei chiedere a Stefano, che ha spesso contatti anche con personaggi della pubblica amministrazione e può testare, no, sul campo, magari non necessariamente a livello di ministeri, di ministri, ma magari a livello di funzionari, di direzioni generali. Ma esiste qualche mosca bianca, cioè qualche personaggio di quelli che magari non ruotano così velocemente nel mondo della pubblica amministrazione, che può aiutare la nostra politica a prendere le decisioni giuste per una volta? Le persone ci sono, solo che esiste uno iato, anche se è difficile comprenderlo appieno, esiste uno iato fortissimo tra il mondo della pubblica amministrazione e il mondo della politica. Sono due cose diverse. Da una parte esiste l'amministrazione che lavora malgrado se stessa, dall'altro esiste la politica che consuma la pubblica amministrazione e il paese, perché oggi questa è la politica nelle sue ultime più interessanti manifestazioni. E il disegno di legge Levi è un esempio di come la politica cerchi di essenzialmente difendere se stessa e tutelare posizioni consolidate. Il disegno di legge Levi è semplicemente una riproposizione di un sistema di caste fatto e strutturato per consentire a chi fa un certo tipo di lavoro di difendersi e evitare che altri comincino a farlo. Non è un attentato alla libertà, e io ritengo che non sia neanche un attentato contro i blog, semplicemente perché non credo che Levi fino a 15 giorni fa sapesse bene cos'erano i blog. La famosa domanda che cos'è un blog, che ti ritrovi spesso a fare, no? Anche ai tuoi allievi, lui non avrebbe saputo assolutamente rispondere. Non credo che ci sia questa sensibilità da parte del mondo della politica, fatto salvo alcuni politici che poi fanno un uso del blog assolutamente curioso. Ma d'altro canto il disegno di legge Levi ci fa vedere anche quanto sia stata scomposta la reazione del mondo della politica. Perché? Perché nel giro di 48 ore da quando è nato in qualche modo è nata la polemica su questo disegno di legge, abbiamo assistito nell'ordine a Gentiloni, che ha ammesso candidamente di aver firmato un disegno di legge senza leggerlo. Lo insegnano in terza elementare di norma, che non si firmano le cose senza leggerlo. Lui che ha un blog, tra l'altro. Lui che ha un blog, sì, sì, lui che ha un blog, vabbè, sì, diciamo, vabbè. Lui che ha un blog, ma essenzialmente dicevamo, Gentiloni dice che lo ha firmato senza leggerlo. Pecoraro Scanio dice che nel consiglio dei ministri nei quali era stato presentato il disegno di legge, lui era dovuto assentarsi per andare a una premiazione dei giovani, sempre scritto dal suo blog. E sempre dal suo blog Di Pietro ci fa sapere che questo disegno di legge al consiglio dei ministri non doveva passarci per niente. Quindi Pecoraro Scanio e Gentiloni erano distratti, e quindi non si sa bene cosa facciano i nostri politici durante i consigli dei ministri. Certo, non stanno attenti a quello che firmano. Io farei anche una riflessione che in qualche modo prescinde dal nostro discorso. Noi siamo tanto attenti a questo disegno di legge Levi, siamo tanto sensibili su questo tema perché è un tema che conosciamo, è un tema nostro. Io ho il terribile sospetto che il livello di approssimatezza, di approssimazione, il livello di incompetenza che hanno dimostrato in questo caso sia il loro livello di incompetenza standard, solo che questa volta ce ne siamo accorti perché riguarda un tema che conosciamo. Bene, ma abbiamo secondo te qualche strumento di difesa? Che cosa può fare la comunità del Web 2.0 per entrare in qualche modo nel meccanismo dell'influenza, no? Della presa delle decisioni che conta? Rivolgersi a qualche politico amico. Questa che abbiamo sentito è la voce di Attilio, che mi onora del fatto di occuparsi della regia nella mia trasmissione. Ma dovrebbe far parte del dibattito. Ah, sì, infatti, no, l'ho visto, faceva gesti di apprezzamento sulle parole di Stefano. In questo caso la blogosfera ha fatto qualcosa, nel senso che la mobilitazione che c'è stata, le centinaia di post, spesso su contenuti non coerenti, spesso con tratti pseudoterroristici magari anche ingiustificati, però questa levata di scudi è servita a sensibilizzare il mondo politico. Mi ricollego a quello che diceva Daniela prima: ho il timore che sia stato più importante l'intervento di Grillo che non l'intervento di tutto il resto della blogosfera messa assieme, il che ci fa pensare al fatto che anche Grillo a volte sbaglia. Adesso, se si può toccare il nuovo santone, anche questo va detto. Ma se lo diciamo per radio forse non se ne accorge, non saremmo subissati, esatto, di commenti negativi. Bene, per introdurre l'altro ospite, perché abbiamo un altro esperto di queste materie, facciamo una pausa musicale. Promozione mobile internet. L'operatore elimina finalmente il pagamento ad ogni accesso dalla propria offerta per la navigazione web sui telefoni cellulari. La nuova offerta mobile internet consente infatti di accedere a Vodafone Live, internet e a tutto il web, escluse applicazioni come VoIP e Instant Messaging, pagando 9 euro al mese senza ulteriori costi. Vodafone ha reso disponibili nella sezione www del portale Vodafone Live i servizi di Google Search, Google Maps, eBay, YouTube. A walled garden refers to certain websites or OSPs, online service providers, who give their members easy access to their content and their partners' content, but no access to the content of their competition. This is in contrast to most other websites and ISPs that provide users open access to all internet sites and content. Vodafone Podcast. È stato battezzato Vodafone Podcast ed è il primo podcast in versione mobile ideato per ricevere trasmissioni radio, TV e internet su telefonini Vodafone Live UMTS. Il nuovo servizio è accessibile dal portale Vodafone Live e attraverso un player da scaricare sul proprio dispositivo permette l'accesso a una vasta gamma di contenuti aggiornati quotidianamente, alcuni dei quali offerti in esclusiva per Vodafone. It is a company that provides customer-only content to subscribers of its service, for example, AOL. Some OSPs, like AOL, also offer internet access, like an ISP. But the main feature is a privately maintained network that is only accessible to their subscribers, also known as subs. Beh, Bene, abbiamo sentito un brano dal notiziario della ormai lanciatissima Net TV di Tommaso Tessarolo, che annunciava questa nuova offerta Vodafone Live, che sembrava dover aprire le porte finalmente, dico io, a una tariffa flat accettabile per il mobile internet, e invece si è rivelato quello che noi chiamiamo un walled garden. Che cos'è un walled garden? Per approfondire il tema dovremmo avere in linea Alberto Dottavi, che è un osservatore del web, diciamo della prima ora, autore del seguito blog infoservi.it. Benvenuto Alberto. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera Alberto. Alberto. Questo era il professor Epifani di cui mi ero biecamente dimenticato. Ma ce l'hai accanto. Non che sia piccolo. Vuoi dirci Alberto che cos'è? Ce lo vuoi dire in italiano che cos'è un walled garden? Ma partiamo dalla traduzione, che è la cosa più semplice: è un recinto, un giardino protetto e chiuso da muri. Sono quei sistemi, quelle applicazioni, quelle offerte che, diciamo, costruite da operatori o dai vari produttori, sviluppatori, che tendono a mantenere i consumatori, i loro utenti, all'interno di una serie di offerte appunto chiuse, insomma, quindi a rendere più difficile il passaggio e l'uscita o il cambiamento di fornitore. Tipicamente questa è la definizione principale. Che si applica, devo dire, sì, all'offerta forse anche di Vodafone Live, ma anche a tante altre cosacce che vediamo in questi giorni. Quando ho sentito di questa offerta Vodafone, mi è venuta in mente una delle grosse bufale, se ben ricorderai tu che hai la memoria lunga, del web 1.0, che era una sorta di scheda video per il PC che inviava tramite l'antenna della TV dei contenuti multimediali selezionati dalla rete internet senza il bisogno di una connessione a banda larga. Allora erano rarissime le connessioni a banda larga. È possibile che non si riesca mai a sfuggire da questa logica di limitare i contenuti, brandizzarli, proporli alla massa dei consumatori, che evidentemente sono considerati ignari del fatto che internet è bella proprio perché è grande, aperta e virtualmente infinita? Ma il problema è molto ampio. Lo spostamento a cui stiamo assistendo adesso di una serie di servizi internet o simili a internet sul telefonino appoggia su una differenza sostanziale, che l'apertura, ed è importantissimo sottolinearla, l'apertura di internet arriva proprio dai livelli più bassi della rete attualmente, e quindi con questo introduciamo anche un altro tema, che è quello chiamato della net neutrality. Oggi la rete internet è neutrale, può trasmettere qualsiasi tipo di contenuto senza priorità. Nelle reti mobili, quindi come è il caso di Vodafone, TIM, tutti gli operatori di telefonia cellulare, questo non è vero. La rete, proprio il sistema distributivo delle informazioni, è invece gestito direttamente dall'operatore. Questo gli dà una forza economica fortissima, perché gli dà la capacità ovviamente di fatturare il singolo contenuto, no? Quindi proprio di misurare i costi e far pagare all'utente i singoli contenuti a seconda dei servizi. Beh, c'è un'altra grande differenza, a mio giudizio, tra la net neutrality lato internet e tutto ciò che attiene il discorso inerente la selezione di contenuti sul telefonino. In qualche modo la banda che abbiamo, della quale possiamo disporre su internet, è virtualmente illimitata. Non lo stesso si può dire per la banda radio. Eh beh sì, indubbiamente, purtroppo la vera internet a due velocità oggi riguarda da un lato il mondo dei cavi e dall'altro il mondo dell'etere. Sì, che sono due mondi profondamente diversi, rispetto ai quali valgono due approcci probabilmente diversi. Certo. Un indizio abbastanza pericoloso, no? Di come venga percepito questo dalle aziende soprattutto. Il mondo dei contenuti generati dagli utenti, che oggi sono la vera ricchezza di quello che chiamiamo il web 2.0, mi è venuto da un evento a cui ho partecipato ieri, questo evento organizzato da Oracle su un tema che non c'entra nulla, l'RFID, in cui però c'è stata una presentazione introduttiva in cui è stata fatta una distinzione, secondo me, allarmante tra web 1.0, web 2.0 e web 3.0. L'1.0, e fin qui si può essere d'accordo, è stata la fase in cui sono state create le infrastrutture, i contenuti arrivavano dall'alto, da grandi editori che portavano il loro business su internet. Il web 2.0 è stata la fase in cui la massa dei contenuti generati dal basso ha cominciato a scavalcare quelli generati dall'alto e si sono create delle applicazioni, non più dei portali, per gestire questi contenuti. E poi è stata presentata la fase 3.0, la internet delle cose, che dovrebbe, diciamo così, portare internet in oggetti come il famoso coniglio, che è solo un simbolo, il famoso Nasbatag, di cui magari parleremo in un'altra trasmissione. Ecco, la cosa triste è che quando si è parlato del 2.0 c'è stata una frase ironica del relatore che ha detto: il web 2.0 che non abbiamo capito bene che cos'è. È come se le aziende avessero perso la presa su internet per un attimo in questa fase che chiamiamo 2.0, e con l'internet delle cose, la 3.0, occupandoci di nuovo soprattutto di hardware, cioè con l'hardware al centro, no, dei nuovi processi, le aziende ricominciano a mettere le mani sulla rete e a tracciare la retta via. Voglio sentire il parere di tutti, anche di Daniela, su questo. Cominciamo con Daniela. Capisco il loro punto di vista, perché non riescono a comprendere cosa sia l'intangibile. Tutto ciò che è su internet per loro è intangibile, tranne il loro bel sitino dove loro possono mettere i famosi pezzi di ferro a cui sono legati, proprio siccome sono soprattutto ingegneri, no? sono legati fin dalla loro infanzia, dai loro sogni di quando erano bambini. Io capisco la loro limitazione mentale nel non riuscire a comprendere che anche la singola persona sia in grado di scrivere un post o di aprirsi un blog. E quindi questo lo capisco. Alberto? Sì, no, a me viene un po' da ridere per due cose che sto leggendo sul Times Online, inglese. Uno è un articolo di cui credo abbiate già parlato, comunque riguarda la prima parte della trasmissione, è intitolato "E geriatrica assolto un Italy's blogger" riguardo al decreto geriatrico, non so se mi spiego. Sì, La seconda cosa è una meravigliosa pagina di speciale sul Web 2.0 Summit che si è tenuto in California, e ripeto, è una pagina, un reportage, diciamo così, uno speciale approfonditissimo, dettagliatissimo, con grande capacità di dettagliare sia l'attualità che la storia e soprattutto le prospettive future del web, chiamiamolo 2.0, 3.0. Io sono un sostenitore della definizione classica di web 3.0, cioè relativa al semantic web del... quello che speriamo tutti che sia il web 3.0, perché... Esatto, semplicemente un web molto più intelligente in cui i collegamenti vengono fatti da programmi che riescono veramente a descrivere i servizi, no? Quindi... e ci permette di esprimere delle richieste molto più intelligenti di quelle che e a darci, o meglio, risposte più intelligenti di quelle che abbiamo oggi, anche con l'evoluzione dei motori di ricerca. Trovare le informazioni migliori e trasformarle in servizi in rete oggi non è facile. L'internet delle cose di cui parli tu è un'altra tendenza sicuramente importante. Io credo che su questo di nuovo i telefonini abbiano il ruolo maggiore nei prossimi anni, ma in mezzo rimane il problema di cui parlava Daniela, di questa, come si può dire, sospettosità da parte delle aziende, delle istituzioni, di alcuni aspetti dell'internet. Però nello stesso tempo, proprio in questi giorni, credo che l'acquisizione di una piccola percentuale di Facebook da parte di Microsoft abbia una volta di più dato un segno di quanto sia invece tangibilmente importante dal punto di vista dell'economia complessiva questa internet fatta dalle persone. Abbiamo letto che per un 1,6% di Facebook Microsoft ha pagato $240 milioni. In realtà è un accordo relativo alla pubblicità che Microsoft potrà fare su quel sito, quindi no, non dobbiamo dimenticarci quello. Però diciamo che la valutazione ufficiale di Facebook oggi è di $15 miliardi. L'anno scorso loro avevano rifiutato, il fondatore che ha 23 anni ha rifiutato un'offerta da $1 miliardo. Sì, ne abbiamo parlato in una puntata proprio su Facebook un paio di settimane fa. Sì, no, non volevo rubare, però volevo dire, mentre nel mondo succedono queste cose, noi abbiamo voglio dire, questo tipo di sospettosità. Sì. Stefano, ma sul tema delle aziende, io ho l'impressione che le aziende siano sempre in difficoltà a digerire le innovazioni dell'information technology. È successo negli anni 80 con la prima generazione dei personal computer, è successo negli anni 90, è successo nel 2000 con internet e credo che succederà anche nei prossimi anni. Essenzialmente il meccanismo è questo: la rete sviluppa delle innovazioni, le innovazioni si sviluppano per conto loro, le aziende se ne rendono conto in ritardo, quando se ne rendono conto le interiorizzano, e di norma questo interiorizzarle viene contestualmente al fatto che la rete ha già fatto la cosa successiva. Ma questo non è detto che sia un bene in nessun senso. Questo per quanto riguarda il tema delle aziende. Per quanto riguarda il tema dei Walled Garden, beh, il discorso è abbastanza articolato, nel senso che io molto più banalmente per quanto riguarda Vodafone parlerei di pubblicità ingannevole. Sì, è materia per il Grand Jury forse. Sì, ma da noi il Grand Jury su questi temi è sempre stato abbastanza letargico, quindi non penso che ne parlerà mai. Ma essenzialmente, quindi, su questo versante è banalmente una pubblicità ingannevole. Non è vero che è un'offerta flat, punto. Anche perché non si può impedire di fatto a Vodafone di veicolare sul suo network i contenuti che decide lei, a meno che non si passi a un altro approccio al problema, che è quell'approccio per il quale la net neutrality diventa un valore assoluto. Il problema non è economico, è politico. Se vogliamo far passare il principio per il quale, principio peraltro già esistente nell'ambito degli operatori con rilevante posizione di mercato in ambito televisivo, per i quali non esiste la possibilità, è vietato fare Walled Garden per operatori dominanti nel settore delle pay TV, se si estende questo principio anche agli altri operatori, se si estende questo principio a chiunque gestisca banda a qualsiasi titolo, si sta facendo passare il principio per il quale la banda è come l'aria e di conseguenza non possiamo pensare che chi ha più soldi respiri di più. Tornando al tema delle aziende, quello che preoccupa è che al di là delle aziende, diciamo così, un po' afflitte da demenza senile, potremmo dire, ci sono invece anche aziende molto dinamiche, giovani o ringiovanite come la Apple di Steve Jobs, che non riescono proprio a resistere alla tentazione chiudere i mondi dei loro prodotti. Per esempio, i tanto decantati iPhone Touch e iPhone, che restano i prodotti straordinari, però all'inizio sono stati lanciati come prodotti chiusi alle applicazioni realizzate da terze parti, e solo quando in pochissimi giorni gli sviluppatori in giro per il mondo si sono divertiti a craccare questi oggetti, a sviluppare le prime applicazioni indipendenti, come un santarello Steve Jobs ha invece detto che molto presto questi due oggetti saranno aperti nuovamente alle creazioni che arrivano dall'esterno. Allora, quello che preoccupa è che ci abbia provato, cioè la sensazione è che si tratti di una decisione molto venduta bene all'interno dell'azienda e solo per quello poi è stata presa. Cioè non è la prima volta che delle decisioni un po' demenziali hanno successo per il solo fatto che è facile venderle internamente. Beh, tecnicamente se Apple non avesse fatto lo stesso sbaglio 25 anni fa, probabilmente oggi avremmo quasi tutti Apple sulla scrivania. Non hanno imparato nulla dalla vicenda di 25 anni fa. Beh, sono comunque diventati proprio in questi giorni ufficialmente uno dei principali, il più grande fornitore di hardware del mondo, ma questo connota i tipi, sono fornitori di hardware. Certo. Alberto. Sì, sicuramente Apple ha sempre usato questa sua chiusura, riuscendo così a controllare meglio tutto il filone produttivo e oggettivamente è riuscita a produrre oggetti di forte design, con un appeal, un interesse molto peculiare. È chiaro che però questo suo approccio, che finora ha funzionato, non può andare avanti ancora per molto, soprattutto non nel campo della telefonia, in cui la concorrenza sta diventando sempre più forte sul piano dei servizi. Ricordiamo anche la mossa di Nokia, certo, che ha parlato di un'integrazione più forte di internet, e non particolar modo non in Italia, no? Si vocifera di un possibile arrivo dell'iPhone in Italia tramite Team, ma questo probabilmente non sarà possibile essendo l'ex monopolist. Nel compenso ho trovato proprio poco fa una notizia positiva di un consumatore italiano che è riuscito a farsi rimborsare i soldi perché non voleva Windows preinstallato sul PC. Sono dei precedenti importanti. Esatto, c'è proprio il giudice da ragione, un utente che ha chiesto indietro i soldi del software preinstallato. recita Corriere.it, e questo potrebbe essere effettivamente una pietra miliare interessante per chi vuole usare altri sistemi aperti. Però ecco, vuoi mettere, scusami, la comodità di comprare un computer con il sistema operativo già installato? Adesso non pensiamo a noi smanettoni, ma al popolo normale, ma è comunque essere, una comodità. Deve essere un'opportunità, non un'imposizione. Non è un'imposizione, tu sei libero di toglierlo. Cioè nessuno ti obbliga a tenere quel sistema operativo, ma ti assicuro, io ho dovuto installare qui 8-10 macchine e ogni volta installare il sistema operativo è una gran rottura. Ma nel momento in cui lo togli, lo hai già pagato. E questo è un altro discorso, certo. Questo stavo dicendo, cioè l'opportunità di non pagarlo. Comunque, visto che ci stiamo togliendo un po' di sassolini, vorrei anche togliermi il sassolino del relatore di cui ho parlato prima, che diceva che il web 3.0, invece che il web semantico, come vorremmo noi, sarà l'internet delle cose. Io ho la sensazione di averla sentita già 15 anni fa, questa cosa si chiamava pervasive computing, ve lo ricordate? Esatto, il pervasive computing, scusami Alberto, vai. No, scusa, il pervasive computing era la versione di IBM, già allora cercavano di etichettarlo e portarselo, diciamo così, di allora metterlo in un wallet garden. La teoria di quella dell'ubiquitous computing, fatta da un ricercatore, adesso mi sfugge il nome, ma è importante che sia un ricercatore perché tantissime innovazioni importanti nella tecnologia sono nate in ambito universitario, e per quel motivo, ovviamente ricordiamo due delle più importanti invenzioni del Novecento, cioè il TCP/IP e l'HTML, e per il fatto che siano nate nell'ambito universitario sono state rilasciate in maniera aperta, e questo ci ha permesso lo sviluppo dell'internet come la conosciamo adesso. Credo che sia importante questa cosa, ecco. Sì, forse è il caso di fare veramente un monumento a Winton Cerf e a tutti i personaggi che si sono inventati queste belle cose in anni e in tempi non sospetti. Noi siamo un po' avanti con i tempi, quindi mi vedo costretto a interrompere questa bellissima discussione, che forse avremo modo di proseguire in un'altra occasione. Grazie Alberto ancora una volta per le tue illuminanti considerazioni. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci. My huckleberry friend, Moon River. Chiudi gli occhi. Entra in Imago. Esci dal mondo. Allora, se posso rivelare un retroscena, quei suoni che sentivamo poco fa di scartabellamenti erano Daniela che cercava di afferrare delle gelatine da un sacchetto di carta qui davanti. Se ne sarà sbaffate una quindicina durante la trasmissione. Non ho pranzato. Ah, ecco. Dunque, io vorrei fare un annuncio importante. Da oggi la rubrica Guru Meditation sarà sempre più, diciamo così, aperta alle interviste svolte in altre occasioni e da terze parti, perché abbiamo fatto una specie di partnership, una specie di accordo quadro con Intruders TV, che è un importantissimo esperimento di, diciamo così, di Net TV, fondamentalmente una rete di corrispondenti che girano per i barcamp, per i seminari sui temi a noi cari. La corrispondente italiana è la bravissima Livia Iacolare, alla quale pressoché in ginocchio ho chiesto di poter utilizzare l'audio delle sue interviste, che trovo molto molto interessanti. E oggi mandiamo in onda la prima, realizzata ancora una volta al Venture Camp con Fabrizio Capobianco di Funambol. Che cos'è? Ve lo spiega lui. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Capitale è il sito e lo sviluppo. farmacia superiore canadese, non è stato accettato da questo in Italia con il capitale americano. Una volta che è successo davvero, anche con il capitale italiano è stato fatto in Israele, che è una piccola replica di questa campagna, può essere sicuramente fatto in Italia. Ti ringrazio per il tuo tempo, per il tempo che ci hai dedicato e ti faccio andare in bocca al lupo per il futuro. Grazie per l'attenzione. Bene, una bellissima storia, l'avevamo anticipata anche la settimana scorsa, ma stavolta l'abbiamo sentita, era la viva voce del suo creatore, un bel modello di venture capitalism all'americana fatto dagli italiani. Sì, un modello che in qualche modo dimostra come, malgrado tutto, sia necessario andare in America. Non lo so, ma una volta era un sogno, no? Ti ricordi gli emigranti? Poi, sì, una volta era un sogno, ma d'altro canto il vero problema è che questo sogno rappresenta una perdita di valore per il paese. Se per realizzare questo bel sogno è necessario andare in America con persone italiane, ma comunque andare in America o comunque acquisire capitali dagli Stati Uniti. Guarda, io sto pensando di proporre al nostro CEO una costituzione di una società all'estero. Beh, se questo può servire per le tasse, ben venga. No, se... non per le tasse, non è per le tasse. Allora, ma però, è per non tutto. In America. No, guarda, non è per solo per le tasse, ma proprio per tutta la legislazione, per tutta la burocrazia, cioè. No, no, ma questo dimostra quello che sto dicendo. È vero, è assolutamente vero. Ma questo vuol dire che l'Italia perde in continuazione valore. Bene, puntata devo dire amara. Vedo una certa tristezza nei vostri occhi, però dovevamo dirle certe cose e le abbiamo dette nei 47-48 minuti che ci siamo concessi. No, che ti sei imposto. non, cioè, la trasmissione dovrebbe durare un'ora. Io non capisco questa necessità di... Non puoi seguire tesserolo a vita. Mi si fredda la pasta. Ah, ecco, allora diciamolo che il problema è la tua pasta. Va bene, allora noi ringraziamo... Le mette al pesto della moglie sono ottime. Sono famose. Sì, eh? Le hai mangiate anche tu, Daniela. Noi ringraziamo ancora una volta tutte le persone che hanno partecipato in registrata, in diretta, per telefono, nonostante le mille difficoltà. Grazie a Daniela e a Stefano, grazie ad Attilio in regia. Buonasera e arrivederci a giovedì prossimo. No, attenzione, giovedì prossimo è vacanza. È vero, è ogni santi, e allora il giovedì dopo ancora. Benissimo. Esatto. Vedi che vogliamo lavorare noi italiani. No, sei tu che mi hai telefonato per chiedermi se ci sarebbe stata o meno. Guarda che sei strano. E mi sono dimenticato, ecco, la tua risposta. Va bene, allora al giovedì dopo, tra 14 giorni. Buonasera. Buonasera a tutti. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.